rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace el delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, t'ajubeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaciga. Hacen falta scratches, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piezas de guerrilleras en la guerra civil. Buongiorno a tutte e tutti. Questa è Radio Quarantella, il palinsesto napoletano di Radio Virus. Siamo in onda tutti i giorni dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17. Stamattina siamo qui per presentarvi una nuova rubrica che si chiama Metropoli in Lockdown, almeno per ora, magari cambierà. E l'idea è quella di creare quante più connessioni possibili in questo momento di crisi anche tra città e città, facendo uno scambio di esperienze, pratiche e saperi. La città di questa settimana è Barcellona, infatti in collegamento con noi anche Rolando da Barcellona, appunto, che è un attivista e scrittore, fa parte di un collettivo antirepressivo. E abbiamo Riccardo Rosa, che è un giornalista di Napoli Monitor, e Virginia e Matilde, abitanti della Vampa di Napoli. Insieme a loro cercheremo di capire quello che sta succedendo attraverso un'analisi anche dei fatti del 25 aprile e confrontando poi le due città, Napoli e Barcellona, da sempre considerate entrambe negli ultimi anni laboratorio politico della sinistra, ma che poi nei fatti non hanno, perlomeno Napoli ieri non ha esitato a, diciamo, a reprimere le istanze degli attivisti che sono scesi, si sono radunati con tutte le protezioni a portare la voce della Napoli più svantaggiata e sofferente di questo momento. Siamo in linea dunque con Virginia e Matilde, che ci faranno una cronaca dei fatti e un'analisi anche di quello che sta succedendo. Ciao, allora, ieri, il 25 aprile, erano stati organizzati vari presidi in città, presidi, diciamo, tutti organizzati in modo da mantenere la sicurezza, quella sanitaria ovviamente, quindi tutte le persone erano con mascherine, erano mantenendo la distanza di sicurezza. E c'è stato un presidio, cioè ci sono state delle azioni a Bagnoli, ci sono state delle azioni a Piazza Municipio, delle azioni sul ponte della Maddalena. A un certo punto il presidio di Municipio, quello che è successo è che il presidio di 7 persone era stato caricato dalla polizia e sono stati appunto portati via 3 compagni, per cui noi che eravamo invece al ponte insieme anche a molti altri compagni e compagne della città abbiamo deciso di andare a sostenere e chiedere il rilascio ovviamente dei compagni fermati. E quello che è successo sotto la questura è stato che anche lì siamo state accerchiate dalla polizia e siamo state identificate, ci è stato chiesto il documento e molte di noi ci hanno fatto la denuncia per trasgressione alle norme anti-Covid. L'assemblea di Non Una di Meno Napoli aveva organizzato un'azione al ponte della Maddalena, semplicemente portare dei fiori e appendere dei panuelos alla targa di Maddalena Cerasuolo per ricordare la partigiana, e questa cosa è stata fatta nel pomeriggio, e ovviamente però anche tutte le compagne Non Una di Meno sono anche, diciamo, venute alla questura, diciamo che appunto la giornata ha preso una piega un po' anche imprevista, o meglio sicuramente prevedibile, perché era sicuramente anche scontato che ci potessero essere dei risvolti di questo tipo a livello di repressione, però ecco appunto rimane sempre l'assurdità della situazione. Diciamo che rispetto al fatto che tra meno di una settimana, a quanto pare, si potrà ritornare a circolare liberamente, nonostante il livello di contagio si stia abbassando, nonostante no, la situazione stia andando in un certo tipo, e anzi proprio per questo, cioè, è come se si stesse ormai normalizzando una serie di misure repressive messe in campo che ormai, se all'inizio erano un po'... Anzi, erano molto confuse e confondibili con quelle che dovevano essere le norme di sicurezza sanitaria, adesso si svelano proprio nella loro natura di pura e semplice repressione. Anche appunto quando lucidamente ci si può dire che non si sta correndo nessun rischio a livello sanitario perché si indossano le mascherine, c'è cioè la distanza di sicurezza, ovviamente la risposta è sempre quella della repressione, perché il punto lì ovviamente non è la sicurezza sanitaria, ma è... Abbiamo una nuova scusa per reprimere la lotta, reprimere le contestazioni, reprimere quella che è una giornata sicuramente di commemorazione, ma anche di lotta, perché diciamo la resistenza non è passata, ma la resistenza deve essere presente, che se no non ci liberiamo mai. Ci sono molte persone che attraversano l'assemblea, che nei loro quartieri stanno partecipando alle spese solidali. E sicuramente in città si sta attivando, cioè la città si sta attivando in questo senso, nella solidarietà che diciamo è, in questo momento è un modo per fare rete, fare relazioni, per sostenersi a vicenda in questa situazione e con ovviamente la prospettiva, mi auguro, di mettere a frutto poi tutte queste relazioni per un discorso politico che vada ben oltre questa situazione e che diciamo tenga insieme tutte le contraddizioni che con la situazione Covid sono ancora più emerse, le contraddizioni del capitale, le contraddizioni del patriarcato, quindi di classe, di genere, di razza, nonché anche di specie. E quindi appunto che passato questo periodo la solidarietà messa in atto sarà servita a esserci fatte forza a vicenda, per poi, diciamo, passare a un'azione che vada al di là della solidarietà, che si basa sulla solidarietà, ma che può andare anche oltre, perché comunque penso che questa situazione ci abbia fatto capire che il modello di produzione, così come tutti i rapporti di potere di questa società, sono ormai insostenibili, che sia un 25 aprile tutti i giorni, che sia resistenza tutti i giorni, perché... Il modello, cioè la società va cambiata subito, non c'è più tempo da perdere. Ma infatti era proprio, diciamo, molti dei vostri compagni e compagne che sono stati fermati ieri sono le stesse persone che stanno poi portando avanti diciamo, le pratiche di solidarietà di questi giorni. Quindi è anche un po' ridicolo che poi si parli retoricamente del 25 aprile e non lo si cali nella realtà, no? Sì, vabbè, assolutamente quella, cioè nel senso una contraddizione che non meraviglia neanche più che a livello mainstream, nei media, che sia il sindaco o chi che sia, che si celebri il 25 aprile quando poi in città ci sono persone che resistono, cercano di resistere tutti i giorni e vengono o invisibilizzate o disconosciute o represse in queste nostre finte democrazie super di sinistra, non ci sorprende molto. Secondo me comunque quello che abbiamo visto ieri in qualche modo ci può dare della forza, perché comunque almeno in questa città è stato un bel momento in cui ci si è rivisti finalmente nelle strade. Diciamo che presidi e proteste non si erano fermate dall'inizio della situazione Covid, voglio ricordare tutti i presidi delle parenti e delle solidali che continuano a tenersi sotto i carceri a Poggioreale, a Secondigliano, Pozzuoli, e così come appunto anche andare in giro a portare le spese e in qualche modo uno stare nella strada, un vivere la strada, continuare a resistere in questo modo. Però ecco, ieri secondo me il rivedersi di nuovo in quello che magari succede anche spesso, no? Durante una situazione di vita normale, ovvero il ritrovarsi sotto una questura perché dei compagni e delle compagne sono state fermate, ecco questa cosa, dopo un mese e mezzo ormai di reclusione, no? Il guardarsi negli occhi, il riconoscersi, lo stare insieme lì e anche il resistere poi quando la polizia ci ha circondato, ecco questo secondo me è stato uno spiraglio di un ritorno alla normalità che però non vuole essere un ritorno alla normalità, ma vuole essere un ritorno nella strada per sovvertire totalmente quella solidarietà e quindi rivedere le proprie compagne, i propri compagni e rivedersi nelle strade, sempre diciamo con la stessa consapevolezza della lotta che si vuole portare avanti, secondo me è quello che di positivo c'è della giornata di ieri. Grazie, tu ci hai parlato sia di carcere che di media, a questo punto quindi mi collegherei a Riccardo e vorrei chiedergli come stanno affrontando il momento a livello giornalistico, in un momento in cui tra l'altro la questione carceraria anche è complicatissima e sappiamo che la state seguendo. Tra l'altro volevo chiederti un commento sulla questione degli arresti che ci sono stati. Sui fatti che in seguito ai fatti che seguirono l'omicidio di Ugo Russo, il 15enne che fu ucciso a Napoli da 3 colpi mentre tentava una rapina, e che difficoltà ci sono anche in questo momento in generale nel comunicare la complessità quando a livello del giornalismo mainstream, diciamo quello solito a cui hanno accesso la maggioranza delle persone. C'è tutta questa logica da tifoseria e da insomma, in cui non c'è un vero approfondimento e non c'è la possibilità nemmeno di farlo perché c'è una sete di notizie molto grande. E dunque si sacrifica, diciamo, l'accuratezza si sacrifica, diciamo, e si cerca di distogliere lo sguardo dalle responsabilità politiche per proiettarlo più che altro sulla colpevolizzazione delle persone. Sì, chiaro. Allora, dividerei un attimo la questione in due filoni. Il primo rispetto a, che poi però comunque come dicevi tu sono decisamente, diciamo sì, si intrecciano. Il primo è riguardo quello che sta succedendo in questi giorni, nel senso che per noi che lavoriamo essenzialmente facendo un tipo di lavoro abbastanza sul campo, insomma da sempre, da quando esiste Monitor, preferiamo magari avere una minore presenza su tutte le questioni, ma quelle che seguiamo, cercare di seguirle essenzialmente anche stando sui posti, insomma, partecipando alle cose, parlando con le persone, insomma, il metodo di reportage narrativo sul campo. Naturalmente, quello che le condizioni in cui ci siamo trovati in questi ultimi quasi 2 mesi hanno reso tutto particolarmente complicato. Proprio qualche giorno fa, rispetto a un lavoro che stiamo facendo sul carcere, che sto facendo io, uscirà uno speciale sul carcere di Milano Opera, credo oggi o domani, ci ponevamo tra noi della redazione proprio la questione su noi che abbiamo sempre, per esempio, il metodo dell'intervista, no? Ho sempre fatto, penso nella mia vita avrò fatto un centesimo delle interviste che ho fatto al telefono. Mentre in questi giorni mi sono trovato a sentire queste mogli, sorelle, compagne dei detenuti al telefono parlare di cose anche abbastanza delicate in una situazione per me, per noi inedita e complessa, però che allo stesso tempo da un certo punto di vista ha portato un vantaggio, perché probabilmente io mai mi sarei sognato di fare un'inchiesta su un carcere di Milano se non prendendo un treno, andando lì e insomma. E quindi questa particolarità abbiamo deciso di declinarla con una serie di, diciamo, cercando di fare un po' di necessità virtù, e ci siamo concentrati soprattutto sulla serialità, nel senso raccontando, prendendo dei focus su cui siamo particolarmente presenti: uno è il carcere, uno è stato la casa e quindi lo sciopero degli affitti, uno dovrebbe uscire a giorni sulle fabbriche, sul lavoro operaio, e provando a fare una ricognizione di tutto quello che sta succedendo in Italia su queste questioni. Ieri, per esempio, l'abbiamo fatto su quello di cui si è parlato finora, sul 25 aprile, e tra l'altro quello che è emerso è proprio quello che si diceva qualche minuto fa rispetto al fatto che abbiamo chiamato il titolo dell'articolo Squarci di Liberazione. Quello che è emerso ieri, magari con dei numeri particolari, con delle situazioni molto complesse a causa del contesto in cui ci troviamo, però è emersa proprio questa voglia, questa necessità e questa anche realtà di stare nelle strade, nelle piazze, facendo cose, di non mollare completamente, naturalmente senza andare poi proprio a kamikaze, perché comunque lo sappiamo che in particolare da qualche anno a questa parte poi la sanzione amministrativa, la sanzione pecuniaria in un certo senso colpisce di più e peggio rispetto a quella amministrativa e penale. Quindi bisogna comunque stare attenti, però c'è stata una presenza nelle piazze, nelle strade di tutta Italia, abbiamo cercato di raccontarla a distanza con un piccolo report da parte di ognuno dei nostri membri della redazione che si trova in Italia. Detto questo, diciamo quindi rispetto alla difficoltà di operare, di agire in un contesto particolare come quello cui ci troviamo in questo periodo, naturalmente questo poi acuisce quelle difficoltà con cui noi ci confrontiamo tutti i giorni e per esempio il dover bilanciare, controbilanciare, combattendo una narrazione completamente sbilanciata come quella dei giornali, Certo. dei grandi media nazionali su tutte le questioni. Hai fatto l'esempio di quello che è successo in occasione dell'omicidio di Ugo Russo, ma se ne possono fare a decine, il carcere è un altro, la retorica sul lavoro e quindi sulla necessità che questi operai portino avanti i settori, i famosi settori chiave, che poi non si è capito quali e perché sono i settori chiave. Insomma, tutte le questioni, se ti soffermi un attimo, hanno un approccio completamente sbilanciato sui grandi media che noi cerchiamo appunto di ribilanciare o di sbilanciare da un punto di vista diverso, che è un po' la nostra linea editoriale. Rispetto all'episodio degli arresti, ci dice, come effettivamente tu spiegavi prima, ci dice delle cose importanti, che però io credo siano meno collegate di quanto si possa pensare rispetto al momento particolare, nel senso che trovo abbastanza una continuità con il prima, con l'operazione che si è cercato di fare fin dall'inizio, quando Ugo è stato ucciso, e che risale poi anche alla stessa impostazione, per esempio, dei giorni immediatamente successivi alla morte di Davide Bifolco. E che diciamo mette su una continuità tra la repressione, o come la vogliamo chiamare, o l'intervento anche armato proprio materialmente, perché di questo si tratta, dello Stato in certi territori, e la sua narrazione. Nel senso che l'episodio dell'ospedale devastato dai parenti e dagli amici del ragazzo ammazzato è stato raccontato in un'assoluta continuità, in un'assoluta necessità unica, che è quella di difesa del carabiniere, quella di difesa dell'apparato che poi ha commesso di fatto un omicidio che addirittura già dal tribunale è stato subito catalogato come omicidio volontario. Adesso, indipendentemente da dove ci porterà l'inchiesta, però il fatto che già si sia parlato fin da subito di omicidio volontario ci fa già di per sé capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un ragazzo sparato al petto da un carabiniere in borghese per 2 volte e che riceve un terzo colpo alla nuca mentre stava scappando, quindi di una vera e propria esecuzione. E io credo che la narrazione di quei giorni, rispetto, vedi, per esempio al caso di Davide, è tutto molto più difficile, perché lì pure ci fu una grande campagna mediatica che dipingeva la famiglia di Davide come camorristi, dietro al motorino c'erano i pregiudicati, i ragazzi erano armati, tutte notizie che poi sono state con grandissima fatica smantellate, ma si è arrivato a smascherare una situazione che era assolutamente estranea a certi ambienti, nel senso che Davide stava girando con 2 amici in motorino e stava tornando a casa, niente di più. In questo caso è tutto molto più difficile, perché effettivamente Ugo, il ragazzino, la stava facendo la rapina in quel caso. Quindi risbilanciare l'opinione pubblica, risbilanciare la narrazione è molto più difficile mettere il focus, mettere, diciamo, al centro della riflessione il fatto che quella sia stata un'esecuzione rispetto all'opinione pubblica, diciamo, dominante, è molto difficile perché in quel momento il ragazzo stava facendo una rapina, un discorso molto più difficile da scardinare. E lo diventa ancora di più perché, approfittando di questa incrinazione, diciamo, nella narrazione, di questo punto debole, naturalmente i media nazionali, i media mainstream vanno assolutamente a calcare la mano su quell'aspetto, e quindi le falsità magari più sottili che ci sono rispetto a quelle che ci sono state nel caso di Davide ci sono state anche nel corso di questa narrazione. Si è parlato su molti giornali nazionali di conflitto a fuoco, di cose che non ci sono proprio state, e soprattutto si è centrata l'attenzione su questo episodio della devastazione del pronto soccorso, con una disparità di empatia totale, un'empatia molto grande nei confronti del povero carabiniere con la fidanzata che stava essendo rapinato, e un'assoluta mancanza di comprensione rispetto a un fatto assolutamente, per carità, increscioso, e che riflette anche una difficoltà culturale, anche una difficoltà di approccio da parte di una parte della popolazione napoletana, ma io credo di tutto il paese, del pronto soccorso, di persone che devastano un pronto soccorso perché non gli fanno vedere il corpo del loro cugino, del loro amico, e non gli fanno capire che cosa stesse succedendo. Quindi la totale mancanza di un approccio, di farsi semplicemente delle domande rispetto a un fatto che, ripeto, è assolutamente, perché poi l'ospedale è una cosa di tutti, tutte cose che noi sappiamo benissimo, però su cui magari varrebbe la pena farsi delle domande. E diciamo, per chiudere e arrivare agli arresti, a quello che è successo oggi, io non credo che ci sia un disegno specifico rispetto alla repressione in questo periodo, che pure io personalmente considero molto alta. Io ho l'impressione che in questa fase, almeno a Napoli, ci sia proprio una, in realtà in tutta Italia ci sia un senso di, diciamo, di frustrazione appagata, ma da parte delle forze dell'ordine, nel senso di poter finalmente avere il controllo di una situazione che in una città come Napoli in particolare normalmente è difficilissimo da avere da tutti i punti di vista nell'ordine pubblico. E diciamo, questa finalmente questo senso di appagamento poi fa alzare il livello della repressione, del controllo, anche del tipo di misure, dell'approccio anche degli agenti nei confronti di chi viene fermato magari perché sta veramente tornando a casa dopo aver fatto la spesa e così via. Credo che invece questa notizia, questo fatto degli arresti così pesanti, in un momento in cui invece anche i magistrati di sorveglianza, anche dal Ministero arrivano delle direttive di limitare gli ingressi in carcere per ovvie ragioni, questi arresti e la narrazione di questi arresti, più che essere qualcosa di specifico rispetto a questo momento, siano qualcosa in perfetta continuità rispetto all'approccio che i media hanno nei confronti di questa storia, che è un approccio più o meno intenzionalmente, più o meno esplicitamente difensivo nei confronti del carabiniere in tutto e per tutto, perché se si mette l'accento su una storia del genere, sul fatto che questi abbiano devastato il pronto soccorso, che poi siano stati arrestati, abbiano avuto queste pene così dure, c'è cioè addirittura l'aggravante del metodo mafioso, dal mio punto di vista è semplicemente un modo per spostare l'attenzione dal punto cruciale del fatto, ovvero l'omicidio di un ragazzino quindicenne, e preparare un terreno più confortevole per il futuro per il prosieguo del processo. Chiarissimo. Ti volevo solo fare un'ultima domanda. Come, non lo so, forse anche un po', forse troppo generale per rispondere, però come leggi tu, come leggete anche con Napoli Monitor, questo scarto tra la narrazione della città di Napoli come laboratorio politico d'avanguardia e poi, diciamo, tutto questo che succede nelle strade e tutto quello che succede alla parte più svantaggiata della città e le aree più periferiche, la questione carceraria, appunto quella dei Rom, la condizione dei ragazzini, appunto, come leggete questo scarto? Ma diciamo per noi anche questa è una cosa che ormai, insomma, questa giunta, diciamo, questa amministrazione a capo dei Magistris governa da 10 anni e non abbiamo mai, da parte nostra, abbiamo sempre individuato abbastanza come un bluff questa storia del laboratorio politico, che forse aveva delle vaghe intenzioni positive nei primissimi anni, ma parliamo solamente di intenzioni di singoli, di singole personalità, ma che nella sostanza si è tradotta sempre in politiche, che andavano in tutt'altra direzione. Noi l'abbiamo sempre, fin dai primissimi anni, sottolineato con un atteggiamento abbastanza decisamente critico. E per quanto riguarda queste questioni qui dell'approccio al controllo della città, della repressione, della emarginalizzazione dei più deboli, di chi è in difficoltà, di chi rompe le scatole, anche qui temo che non ci sia niente di nuovo, nel senso che qualcuno lo individua come qualcosa che è avvenuto negli ultimi 3, 4, 5 anni, in cui in generale, anche in molte fasce di compagni, di movimenti, si è cominciato ad avere una visione più critica rispetto al fenomeno De Magistris e a questa giunta arancione. Ma in realtà, proprio da questo punto di vista qui, possiamo identificare episodi fin dall'inizio. C'è uno sgombero, c'è stata una politica molto dura nei confronti degli ambulanti africani e napoletani di via Bologna dietro la stazione, che è una roba che risale a quasi 10 anni fa. Le politiche nei confronti dei Rom parlano chiaro, hanno un'assoluta continuità in tutti questi 10 anni. Ma insomma, basta anche pensare che uno degli uomini chiave dell'amministrazione del Magistris in questi 10 anni è stato Auricchio, che insomma è militare a tutti gli effetti, oppure anche da un punto di vista verbale, proprio la retorica su, penso alla videosorveglianza come soluzione di tanti conflitti più o meno esplosi, da un punto di vista proprio urbano all'interno della città. Credo che anche da questo punto di vista non ci sia molto di nuovo sotto il sole. Noi, da un punto di vista nostro di redazione, è comunque fatta anche da tanti attivisti, tanti militanti. Quello che possiamo fare è cercare di unire i due piani di ragionamento, nel senso la narrazione più lucida e anche più obiettiva possibile, con anche quella che a volte è l'azione che tanti di noi, tante persone che collaborano con il giornale e che stanno anche nelle strade, nei posti occupati, nelle realtà sociali della città, cercare di dare una continuità, di un'apertura di sguardo maggiore rispetto a quello che è successo e che sta succedendo, e che sicuramente, indipendentemente da chi poi sarà il prossimo sindaco e quale sarà la prossima amministrazione, continuerà a succedere. E diciamo che anche la città di Barcellona vive un po' questo scarto, diciamo, tra la narrazione e la realtà, specialmente negli ultimi anni, o comunque le modalità di repressione del dissenso, sia nello Stato spagnolo che in particolare in Catalogna, anche altrove, raggiungono livelli altissimi. Siamo in collegamento, come abbiamo detto, con Rolando, che fa parte di un collettivo antirepressivo, e magari Rolando, se ci vuoi fare un po' una panoramica generale, poi magari entriamo nello specifico di quello che sta succedendo in questi giorni. Così riusciamo anche un po' a contestualizzare e a capire più cose. Benissimo, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, contestualizziamo un po'. Barcellona è nello Stato spagnolo. Stato spagnolo che viene spacciato come una democrazia compiuta, una democrazia formale, borghese ovviamente, però avanzata. Vediamo un po' qual è la struttura repressiva. La cultura repressiva nello Stato spagnolo è molto specifica e viene da lontano. Prima di tutto, a livello istituzionale, dobbiamo tenere presente che la magistratura, il sistema giudiziario, è abbastanza diverso da quelle che sono le democrazie formali del contesto europeo, no? Per esempio, ci sono questi tribunali speciali come l'Audienza Nazionale, che in realtà è proprio l'erede diretto del Tribunale d'Ordine Pubblico franchista, proprio fondata lo stesso giorno in cui venne eliminato questo tribunale franchista e nello stesso posto con gli stessi magistrati. Mi correggo, la metà dei magistrati, perché l'altra metà andò al Tribunale Supremo, che è un po' l'equivalente della nostra Corte di Cassazione, secondo alcuni, però che in realtà ha altri attributi di tipo politico, come abbiamo visto nel caso del processo contro gli indipendentisti catalani. Con la magistratura, che ha una cultura ovviamente dominante di estrema destra, non di destra, cioè non è conservatrice, è apertamente di estrema destra, c'è poi la polizia, la Guardia Civile, si sa, la polizia è un corpo, è un'istituzione dedicata a mantenere lo statu quo, quindi è repressiva della dissidenza ovunque. Bene, però qui alcuni corpi di polizia, tutti in genere, però in particolare alcuni come la Guardia Civile, hanno caratteristiche del tipo 5.000 casi di tortura documentati, dimostrati solo in un decennio, negli anni 90 fino al 2000. In 5 casi lo stesso ministro degli interni attuale, il socialista Marlaska, che è giudice dell'Udienza Nazionale, è stato condannato dal Tribunale Europeo dei Diritti Umani per non aver indagato casi di tortura che gli erano stati denunciati quando gli era stata presentata gente in condizioni veramente pietose dalla Guardia Civile. Lui aveva negato assolutamente nessun tipo di denuncia, no? Però non solo, c'è stato il fenomeno in Spagna sotto governo socialista del GAL, uno dei pochissimi fenomeni di guerra sporca che c'è stata in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Decine di morti, assassinati, sequestri, desaparecidos, torture inenarrabili e morte. Cioè, questo qui è stato organizzato direttamente in connubio con la Guardia Civile da un governo socialista. Però non solo, abbiamo l'arsenale legale che anche qui è abbastanza, si discosta in senso non garantista dalle altre democrazie, fra virgolette, occidentali. Fra tutte la legge antiterrorista, che tutti i paesi hanno ormai, però che qui ha delle derivate veramente assurde. Cioè, veramente c'è terrorismo, si può processare gente per terrorismo senza che ci sia né organizzazione, né armi, né esplosivi, né attentati, né feriti. Cioè, semplicemente, per esempio, una rissa in un bar, come è accaduto nei Paesi Baschi, in Navarra, 2 anni fa, e che è costato 12-15 anni di galera a ragazzi che avevano semplicemente fatto a cazzotti con dei guardia civili in borghese che stavano provocando in un bar. Un esempio fra tanti. La legge antiterrorista, con molti reati d'opinione, cioè il reato di apologia del terrorismo qui va alla grande, anche ormai sono passati anni dalla fine della lotta armata da parte dell'ETA, però continuano a esserci un sacco di processi per apologia del terrorismo. Poi c'è la famosa ley Mordaza, la legge Bavaglio, che è una legge che fra l'altro rende possibile che qui oggi tutte le multe siano valide, perché è pensata per questo, cioè una legge che dà un potere praticamente assoluto alla polizia, è una misura amministrativa che è stata usata moltissimo nella repressione della dissidenza dal 15M, cioè dal 2011 ad oggi in modo crescente, nel movimento indipendentista è stata applicata in decine di migliaia di casi, con multe salatissime ovviamente e contro le quali non c'è possibilità praticamente di ricorso, che non sia davanti alla stessa polizia. Quindi, bene. Però non solo, c'è stata la legge su internet, che lo Stato spagnolo è l'unico Stato con la Cina, la Corea del Nord e mi sembra la Russia, ma non sono sicuro, che abbia un tipo di legge di controllo di internet e la possibilità di censura. Per quello che riguarda la città di Barcellona, anche qui abbiamo la nostra piccola legge repressiva, che è l'ordinanza civica, che venne approvata con un tripartito, cioè un governo socialista, e che non è mai stata derogata, contrariamente a quello che era stato assicurato in un primo momento. È una legge che prende come scusa, si chiama così, ordinanza civica, la chiamavano la legge del non fare il pipì per strada, perché era una delle cose su cui si concentrava la propaganda. In realtà è un tipo di ordinanza che attacca molto duramente la dissidenza e attività, diciamo, che disturbano, come appunto il top manta, che sarebbe la vendita ambulante, oppure la prostituzione. E dopo non dimentichiamo, per completare il contesto, l'apparato mediatico, che in Italia non scherziamo, però che qui ha una particolarità della enorme presenza di media, televisioni, radio, giornali di grande diffusione e che sono direttamente di estrema destra, della destra più estrema fascista, Vox, no? Allora, le conseguenze di tutto questo, vediamo il contesto precedente alla crisi del Covid. Prigionieri politici in Spagna, centinaia, ce ne sono 400-500, ora non ricordo bene, baschi, una cinquantina di galiziani, mi sembra. Ci sono questi 9 prigionieri politici catalani, che ricordiamo sono la metà del governo catalano, democraticamente, fra virgolette, eletto, più la presidente del Parlamento catalano, più i leader, i segretari, diciamo, delle 2 più grandi associazioni civili della società catalana. Questa gente è in galera con condanne pesantissime per reati che non hanno nulla di violento e nulla di latrocinio, no? Ma non solo, la giudiziarizzazione della politica ha portato che, per esempio, il SAT, il principale sindacato dei lavoratori andaluso, della campagna andalusa, braccianti, eccetera, ha 800 persone sotto giudizio, giudiziarizzate. Il diritto di manifestazione, il diritto d'opinione è stato represso con decine di denunce, decine di condanne contro rapper, burattinai, gente che scriveva dei tweet. Solo in Catalogna, negli ultimi 2 anni, cioè dal 2017 ad oggi, ci sono stati 2.500 processi giudiziari, che sono ancora in atto, molti di loro, decine di persone condannate, oltre ai prigionieri politici, oltre 2.000 feriti pestati dalla polizia in diverse occasioni e decine e decine di migliaia di multe nella legge Mordaza. Adesso vediamo, proprio recente di questi giorni, un'altra condanna, non qui a Barcellona, una condanna a una personalità di Podemos, una compagna, si chiama Isa Serra, mi sembra, che è stata condannata a 19 mesi per aver partecipato a un picchetto, faceva parte di un picchetto antisfratti, ed è stata accusata di aggressione di massa, cioè non è stata accusata individualmente, questa è una delle tipologie che sono utilizzate molto, cioè non importa che tu sia l'autore della sassata o del cocktail Molotov o dell'insulto, basta che tu ci sia, e questo viene applicato costantemente. A lei è costato 19 mesi questa partecipazione per degli insulti alla polizia, non c'è stata violenza né niente. E dopo ci sono altre tipologie, per esempio altre fattispecie, il delitto d'odio, che è stato in principio, era previsto per proteggere e tutelare categorie fragili, vulnerabili, come le minoranze razziali o religiose o sessuali, eccetera, dalla discriminazione, e viene utilizzato per proteggere la polizia, come la Guardia Civile, Polizia Nazionale o Mosso de Squadra, no? Vediamo, siamo arrivati quindi in questo contesto, siamo arrivati alla situazione attuale. Qui in Spagna, cioè in tutta la Spagna, sono state 700.000 le multe, cioè più del doppio che in Italia, con 13 milioni di abitanti in meno. E queste multe andranno tutte, bueno, tutte non lo so, però diciamo in gran parte non c'è nessun giudice, nessun procuratore che si sia pronunciato contro, nessun politico che abbia consigliato prudenza. Sono 700.000 multe e 2.000 arresti che sono perfettamente coperti e garantiti dall'attuale struttura giudiziaria, no? Leggevo sempre Iridia stamattina, che pubblicava, diciamo, una sorta di piccola guida per capire un po' cosa sta succedendo e come si sta utilizzando la legge Mordaza, che già è una legge sproporzionata e che sta venendo utilizzata in maniera sproporzionata, e leggevo alcuni esempi, diciamo, di multe che qui vanno da 600 a 30.000 euro per disobbedire all'autorità, e leggevo tipo per partecipare a un festeggiamento c'è una multa di 10.400 euro. Sì. E la multa di 30.000 euro al gruppo di i migranti che facevano da rete di supporto ad altri migranti senza documenti per portare alimenti, per portare generi di prima necessità. Sono stati fermati due volte dai vigili urbani di Barcellona, la Polizia Municipale di Barcellona, e gli è stata imposta questa multa di 30.000 euro che, secondo fonti del comune, verrà, diciamo, ritirata nel momento in cui dimostrino che veramente andavano a portare cibo o altri generi, cosa che era evidente di per sé. Allora, qui a Barcellona, passiamo adesso a Barcellona, perché quando arrivò Ada Colau e questo governo, diciamo, di super sinistra, uno dei punti caldi era, del loro programma, era l'eliminazione della divisione di antisommossa della polizia municipale, perché qui a Barcellona abbiamo anche questo, abbiamo dei vigili urbani che hanno un corpo di antisommossa. Questa era una cosa voluta da un sindaco socialista, Clos, e che era rimasta. Quindi, ed è un corpo che evidentemente, come tutti gli antisommossa, hanno creato un sacco di problemi a livello di ordine pubblico, nel senso che lo violano sistematicamente. E allora quello che avevano promesso e che non sono riusciti a fare, e qui devo dire che ci hanno provato, perché João Massens, che adesso è a Madrid con Podemos, in questo senso è stata una persona sempre coerente ed ha cercato effettivamente di sciogliere questo corpo, non ci è riuscito, semplicemente perché c'è questo potere di fatto degli armati, dei pretoriani di oggigiorno, no? L'ordinanza civica di cui ho parlato, anche questa doveva essere riformata profondamente, eliminandone tutti gli elementi di antidissidenza politica o minoranze vulnerabili, ma non è stato fatto assolutamente niente. E invece nel secondo mandato, perché sapete che il secondo mandato dell'Ada Colau già cominciò male, perché cominciò grazie ai voti dell'estrema destra dei Ciudadanos, concretamente del Manuel Valls, che è un personaggio politico di trista memoria in Francia, e subito, sin dall'inizio, sono cominciate operazioni in questo secondo mandato, come le retate contro i manteros, contro i venditori ambulanti, appunto, in gran parte africani. Sono continuati gli sfratti, nonostante la propaganda del comune che dice che hanno alleviato la situazione di molte, però sono continuati alla grande. Adesso, in questa situazione, abbiamo assistito a un'operazione scandalosa da parte dello stesso Comune di Barcellona di sdoganamento dell'esercito. Prima ho parlato delle istituzioni repressive dello Stato spagnolo. Non dimentichiamo che abbiamo un esercito che è quello d'Europa più avvezzo a fare colpi di Stato e a combattere contro popolazioni civili, la propria e coloniali, no? Come in Marocco, ad esempio. Questo esercito, per esempio, che fece il colpo di Stato con Franco, non ha mai rinnegato, anzi, cioè, ha giurato fedeltà al re, che è stato a sua volta nominato da Franco, quindi c'è una continuità proprio storica, istituzionale, che rimane intatta, e la cultura dei grandi comandi dell'esercito, e basta sentire le dichiarazioni, continua ad essere la stessa. Bene, di fronte a questo esercito, quello che ha fatto la sindaca di Barcellona e quello che hanno fatto in genere Podemos e Comuni, questa nuova sinistra così di rottura, è stato sdoganarlo, cioè invitarli, applaudirli, considerare il loro contributo essenziale, importante, approvare tutto il linguaggio militarista e la propaganda da guerra, diciamo, che è stata sviluppata intorno a questa crisi, e senza nessuno, assolutamente nessuno spirito critico. Adesso continuano ad esserci problemi qui a Barcellona, come ad esempio recentissimo le battute razziste, che è veramente una cosa visibile, palpabile, però che è difficile da provare. Il comune naturalmente nega, però sono molte le voci che stanno dicendo che sono in atto vere e proprie battute in cui si cerca l'immigrante senza documenti, che viene ulteriormente schedato, che viene multato, che viene minacciato e che viene messo nella lista nera di quelli che appena possibile saranno espulsi. Un altro elemento da aggiungere di questa nuova politica nel campo repressivo è il discorso sugli indigenti, su quelli, sui senza tetto, no? Che come grande misura sono stati alloggiati in un padiglione sorvegliato e organizzato dai militari proprio alla fiera di Barcellona, in una città dove ci sono centinaia e centinaia di alberghi vuoti in questo momento e dove ci sono migliaia di appartamenti turistici. E l'ultima misura che dice che sì, sono stati non requisiti, sono stati affittati alcuni appartamenti turistici per alloggiarvi famiglie vulnerabili a 1.100 euro al mese per i proprietari, detto per inciso. Bene, questo non c'è la panoramica, poi se vuoi, se volete, approfondiamo sì. Qualche punto. Scusate, sono stato un po' lungo. Più che altro, noi sappiamo che diciamo, questo livello molto alto di repressione ha fatto sì che ci si organizzasse anche in realtà molto bene in organizzazioni, osservatori e tutto questo genere di realtà per cercare di contrastare e difendersi e in qualche modo tutelare le persone che vengono colpite dalla repressione. Ti volevo chiedere se potevi farci diciamo, un elenco di pratiche, di nominare qualche realtà che si occupa di questo, come si muovono, perché paradossalmente questo grande livello di repressione fa sì che si possano che a Barcellona ci siano poi strumenti abbastanza sviluppati che possono essere magari utilizzati anche in altre città o riprodotti. Sì, allora vediamo, diciamo che qui ci sono diversi livelli. Io faccio parte di una piccola piattaforma che prima era più grande, che si chiama Spazio di Collaborazione Antirepressiva. Prima era Retroguardia in Movimento, cioè Retroguardia in Movimento. Siamo in contatto con un'altra organizzazione, si chiama Difendiamo chi difende, il centro osservatorio, i vari osservatori contro gli abusi di potere, eccetera, eccetera. Allora, io distinguerei, cioè da una parte c'è un ottimo lavoro che viene fatto, in genere, di controllo e denuncia di quelle che sono le politiche repressive. Su questo l'analisi è molto buona, esauriente, ci sono questo centro Iridia che hai citato, sta facendo un eccellente lavoro con altri osservatori, appunto c'è un osservatorio catalano dei diritti dell'uomo che stanno facendo pure loro un buon lavoro, tutto questo è molto elaborato. Dopo ci sono settori politici che si organizzano per rispondere in modo solidale alla repressione. Il caso del movimento indipendentista catalano, come lo fu nel caso dei Paesi Baschi, lo è nel caso dei Paesi Baschi, è molto solida questa struttura. I fondi di resistenza sono molto nutriti, la struttura è capillare, c'è un buon appoggio, un buon sostegno ai prigionieri che vengono seguiti, sono appoggiati, eccetera. Devo dire che purtroppo però non tutti i settori hanno la stessa capacità, i settori politici, di dissidenza politica, la stessa capacità o la stessa lungimiranza. Lo dico perché nel mondo del lavoro, ad esempio, non esiste questa grande consapevolezza dell'importanza di un lavoro antirepressivo. Eppure, di casi di repressione di scioperanti, ce ne sono a bizzeffe, no? Un altro ambito che è un po', diciamo, indifeso è quello dei settori, anche se hanno le loro organizzazioni, i settori diciamo non più libertari, più non sindacalizzati, qui sapete ci sono due sindacati anarchici o di ispirazione anarchica, sono la CGT e la CNT, loro hanno le loro strutture, però dopo c'è tutto il mondo diciamo della sovversione libertaria, che è importante a livello sia culturale sia di presenza nel territorio, però che non ha una difesa, non ha elaborato strumenti di difesa articolati. Un po' quello che cerchiamo di fare con queste piattaforme che si creano periodicamente è appunto cercare di riunire tutta questa gente e cercare di stabilire legami fra i vari campi. Per riassumere, cioè si sta facendo un buon lavoro di analisi e un buon lavoro di denuncia, si sta facendo un ottimo lavoro di supporto, di sostegno, solidarietà in alcuni settori della dissidenza politica e sociale e manca allargare queste pratiche al resto della società. Devo dire che, ad esempio, nei casi della repressione che si è vissuta più recentemente qui in Catalogna, le grandi organizzazioni indipendentiste sono state abbastanza solidali anche con altri settori, nel senso che se c'era da pagare avvocati e così via, lo hanno fatto in genere, no? Però un po' è questa la situazione, c'è un po' di chiaroscuro. È vero che c'è un buon lavoro, però è anche vero che si sono mancati. Ok. In Italia stamattina c'era ACAD che ha fatto un post su Facebook in cui si denunciava quello che era successo ieri, diciamo, e che probabilmente seguirà nei prossimi giorni anche l'evoluzione di quello che sta succedendo. E ho letto qualche articolo, ho letto Popoff Quotidiano e lo stesso Napoli Monitor che hanno un po' seguito quello che è successo ieri. Non so se Riccardo ci vuole dire dove e come è possibile seguire ulteriormente gli sviluppi di quello che sta succedendo, sia sulle questioni, sulla questione carceraria, sia su, in generale sul livello repressivo. Sì, sulla questione carceraria, come ti dicevo prima, sul sito tra stasera e domani mattina metteremo questa inchiesta sul carcere di Opera a Milano. L'idea, noi ne abbiamo pubblicata una firmata da Luigi Romano sul carcere di Santa Maria Capua Vetere qualche giorno fa. L'idea è cercare di dare, proprio nell'ottica di quello sbilanciamento con i media mainstream di cui parlavamo prima, che quando parlano di queste cose parlano sempre come di, sai, il melamarcismo, le 20 guardie pazze che fanno i macelli in carcere, o al massimo il direttore che non ha il controllo della situazione. L'idea è cercare di fare inchieste 3-4 di carceri diversi in diverse parti d'Italia per cercare appunto di implicitamente di far capire che è una questione di sistema e non di singoli, e quindi pubblicheremo questa cosa e poi continueremo a pubblicare degli aggiornamenti rispetto a quello che è successo ieri in altre città. Ci sta arrivando qualcosa da Bologna, da Firenze, sono appunto, come ho detto prima, dei focus in continuo aggiornamento su cui noi mettiamo notizie, non potendo muoverci, diciamo, da casa, facciamo questo tipo di lavoro. Ok, io sono in contatto con le compagne che sono intervenute prima, che purtroppo non riescono a ricollegarsi, e niente, quindi tra l'altro il tempo ci è finito, dobbiamo chiudere, però sono sicura che avremo lo spazio e il tempo per continuare ad approfondire la situazione, se vi fa piacere intervenire nuovamente in trasmissione nelle prossime settimane. E insomma, così possiamo capire anche gli sviluppi di quello che sta succedendo e cercare in qualche modo di analizzarlo. E anzi, grazie mille per averci aiutato a capire un po' meglio e contestualizzare tutto. E niente, ci sentiamo la prossima volta e grazie per essere stati qui. Grazie a voi e un abbraccio e a presto. Ciao, grazie. A ciao presto, a tutti. Ciao. Ciao. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Non resta altro che ricordarvi che Radio Quarantella, il palinsesto napoletano di Radio Virus, va in onda tutti i giorni dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17. Potete scrivere alla radio usando l'indirizzo radioquarantella@gmail.com e ascoltarla su radiovirus.org o adottando la nostra soluzione contro il digital divide, che è riassunta nel motto esci le casse, metti le casse al balcone e fai ascoltare la radio. Seguite il palinsesto di Quarantella su Telegram. Questa canzone si chiama Los Borbones Son Unos Ladrones ed è stata scritta da un gruppo di rapper in solidarietà con Valtonyc, che è un rapper che scrisse una canzone contro la monarchia ed è ora in esilio. Metropoli in Lockdown torna la settimana prossima. Ciao! Mestinguts és qui sempre hem mantingut a sa casa real. Antisistema és un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí de l'epan. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar con las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callarem, no callarem. No callarem. No callarem, co. No callaremos. Por la insurgencia. Baltonic, Cell. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posición.